poi te ne porto uno scarafaggione. No, esatto. Ho ben presente il maialone perché ogni volta che mi fermo agli autogrill vado lì a schiacciarlo, no? I topi ballano. Eccola là, quando il gatto non c'è, il gatto befera, chiamiamolo così. Qua ti volevo, cara mia, però ti posso dire... E qua cade l'asino. No, non sei un asinello, dai. Sono anche uno sgranocchiatore. Mi piace, Antonio. Un topolone. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Cos'è tutta questa storia di grosse calorie? Sai chi te l'ha messo in testa quella dannata televisione? Ogni volta che l'accendi vedi uno che parla di perdere peso, essere sano, tornare in forma. Io so cos'è sano e ti dico anche un'altra cosa. Tanto per cominciare non capisco perché tutti vogliono perdere peso. Non dobbiamo essere per forza della stessa misura, dobbiamo essere diversi. Non so perché vogliono essere tutti della stessa misura. Small, media, large o extra large? Qual è la vostra taglia? Quale numero o letterina è scritto sull'etichetta dei vostri abiti? E quale taglia invece vi sentite indosso? Parliamone oggi insieme anche alla luce dei fatti di cronaca dei giorni scorsi che ci invitano a considerare il problema obesità non solo dal punto di vista clinico ed epidemiologico ma anche dal punto di vista psicologico e relazionale. Il peso, lo sappiamo, è uno tra gli indicatori della nostra salute fisica ma è anche allo stesso modo una delle variabili della nostra salute emotiva. 800 24 00 24, che taglia avete, che taglia vi sentite, che taglia vorreste avere e aggiungo perché. Nella seconda parte del nostro programma invece parleremo di una scadenza che interessa quasi tutti. L'avete pagato l'acconto della famigerata Tasi? Fate attenzione perché la scadenza è proprio questo giovedì, il 16 ottobre. Difficilmente è venuto qualcuno a ricordarvelo o a calcolare la cifra che dovete al fisco. Se vi era passato di mente o se avete rimandato e rimandandovi siete ridotti proprio all'ultimo, non vi preoccupate perché siamo qui per aiutarvi. Torneremo a spiegare come fare i conti, come pagare e anche naturalmente per rispondere alle vostre domande se siete in una situazione che ancora vi crea qualche dubbio. 800 24 00 24, iniziate a prenotare i vostri interventi per questo tema che approfondiremo a partire dalle 11.45. Cicciottella è una bambina fatta a forma di bimbe, i capelli sono di zucchero filato. Cicciottella, morbida, tondetta, formosina, sono i termini che usiamo per descriverci o descrivere le persone con qualche chiletto in più. I medici invece sono meno fantasiosi, più rigorosi, parlano di normopeso, sovrappeso, obesità. Noi oggi la prendiamo un po' più alla larga e vi proponiamo invece di raccontarvi attraverso la vostra taglia, quella che indossate e quella che vi sentite addosso o che gli altri vi fanno sentire addosso. Il peso, lo sappiamo, è uno degli indicatori della nostra salute e il sovrappeso è legato ad una serie di disturbi di cui abbiamo parlato tante volte, ma il peso è anche un termometro, posso dire così, della nostra salute emotiva. Per questo oggi in linea abbiamo due esperti che ci aiutano ad affrontare il tema da due angolature differenti. Tornate a trovarci il dottor Francesco Aquilar, presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale e colonna importante del nostro Daily Lab, è l'appuntamento con i consigli degli esperti che trovate sulle pagine di Cuore Denari. Dottor Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e agli ospiti in studio. E in linea con noi abbiamo anche il professor Giuseppe Fatati, che è presidente della Fondazione dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica e direttore di Diabetologia e Dietologia all'Ospedale di Terni, che immagino si sia appena ripreso dal Grand Tour dell'Obesity Day che ha coinvolto 200 centri di dietologia sparsi lungo la penisola. Non so se ne avete approfittato, è una giornata per fornire consulenze generiche gratuite, effettuare azioni informative, distribuire materiali divulgativi e effettuare anche approfondimenti con esperti. Noi l'esperto ce l'abbiamo in linea, quindi già da potete approfittarne. Intanto buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a Nicoletta, a Deborah, a tutto lo studio. Buongiorno professore. Come è andata l'Obesity Day? L'Obesity Day è andata molto bene, quest'anno abbiamo modificato anche la grafica e quindi c'è questo pupazzetto brillante che esce un po' da una figura un po' grigia e un po' rotondetta, che mi sembra ci abbia portato fortuna. Adesso lanceremo anche nel prossimo nostro convegno nazionale una sorta di mini concorso perché i nostri soci dicano e suggeriscano un nome a questa nostra mascotte che penso ci abbia portato veramente bene e abbia dato un po' di allegria anche a chi è riuscito a venire nei nostri centri. Come la chiameresti tu, Deborah? Nicodebo, come Nicodebo, ci chiama? Esatto. Devo guardarlo per capire se mi come ispira ci chiama qualche Bracciola. Cosa. Adesso lo cerco. Allora, sì. Noi la buttiamo lì, così no, la fusione di Nicoletta e di Deborah. Ci candidiamo, sì. Dottor Aquilar, noi abbiamo chiesto ai nostri amici da casa di dirci che taglia hanno e che taglia si sentono, perché lo sappiamo bene, il peso, nonostante la bilancia parli in modo chiaro, è un dato soggettivo, no? Possiamo avere chili in più e non sentirli, o al contrario essere in perfetta forma e sentirci sovrappeso. D'altronde, che tra peso ed emozioni ci sia una relazione molto stretta è dimostrato dal fatto che si possono accumulare o perdere chili in seguito a eventi molto felici o decisamente infelici. Certamente, e intanto ci conviene cominciare a sottolineare ai nostri ascoltatori di valutare il loro peso attuale su due assi, sul considerarlo temporaneo o naturale, perché noi possiamo riconoscere di essere in un periodo particolarmente difficile o particolarmente di stress e quindi che abbiamo un peso che non è quello che corrisponde al nostro valore naturale. Il secondo punto è anche quanto noi siamo consapevoli del nostro peso e quanto possiamo fare amicizia con l'eventuale sovrappeso o sottopeso, che è la prima condizione per poterlo poi modificare. Possiamo aggiungere anche un'altra domanda, non so se Deborah è d'accordo, come, ispirata un po' ai fatti di cronaca di questi giorni, come valutate, no? Come considerate le persone sovrappeso, le guardate, le discriminate, fate dei pensieri del tipo guarda però come è trasandato, oppure pensate avrà un problema? Il giudizio negativo oppure magari anche un momento di comprensione, perché giustamente il professore diceva, come dire, qualche volta ci allarghiamo un po' per questioni che sono totalmente indipendenti dalla bocca, dal cibo, no? Un po' proprio per stress. E di questo parla. E c'è anche la questione delle inferenze arbitrarie, cioè nel senso noi possiamo tendere a fare delle inferenze arbitrarie sulla base di alcuni elementi che sono in genere molto pochi che abbiamo su una persona. Ovviamente, poiché le cause dell'obesità o del sovrappeso possono essere molte, queste inferenze saranno sistematicamente arbitrarie. Quindi comunque noi possiamo invitare le persone a prendere le distanze da alcuni automatismi mentali, anche socialmente diffusi, e mettere un punto interrogativo prima di trarre un'inferenza arbitraria da un aspetto che vediamo su una persona. Professor Fattati, vengo a lei, no? Con carta e penna oppure con una calcolatrice noi possiamo avere un quadro preciso della nostra situazione e sapere se siamo sottopeso, normopeso, sovrappeso, se siamo obesi. Basta calcolare l'indice di massa corporea dividendole, ricordiamo, il peso espresso in chili per il quadrato dell'altezza espresso in metri, si ottiene un numerino che se è superiore a 25 a 30 ci fa rientrare nell'area del sovrappeso e obesità, mentre se è compreso tra i 18,5 e i 24,9 e i 25 siamo promossi, tra virgolette, perché rientriamo nella fascia del normopeso. I numeri però, professor Fattati, vanno interpretati. Ci aiuta un po'? Sì, allora sono perfettamente d'accordo con quello che diceva l'altro ospite quando ha parlato di automatismi arbitrari. Noi con l'indice di massa corporea, il body mass index, questo che lei ha descritto, mettiamo in campo un automatismo veramente arbitrario, perché in realtà questo indice nasce per i grandi studi di popolazione, per poter poi confrontare gli studi, quindi come tutti questi indici è un indice arbitrario che non ci dice però, non ci descrive il soggetto che abbiamo di fronte. Certo. E in questo devo dire che noi medici dobbiamo fare un po' di autocritica, perché spesso e volentieri questo indice ci aiuta purtroppo a guardare in maniera molto superficiale il paziente. In realtà noi tipizziamo poco l'obeso, forse perché ancora non siamo tutti convinti che l'obesità sia una malattia e molti pensano ancora che è solo un disturbo estetico o un disturbo del senso del piacere, dell'edonismo. L'obeso è così perché mangia troppo, cosa che non è vera. E quindi studiamo poco il paziente, perché in realtà i soggetti con sovrappeso e con obesi sono uno diverso dall'altro, anche dal punto di vista metabolico. Che cosa voglio dire? Dal punto di vista ormonale e dai risultati che il loro movimento ormonale dà sul metabolismo, noi possiamo avere degli obesi che hanno un metabolismo, diciamo, o almeno un'area metabolica accettabile, che sono gli obesi metabolicamente magri, così si chiamano, ossia quelli che non hanno, hanno le glicemie a posto, hanno il colesterolo, i trigliceridi a posto, hanno la pressione a posto, e hanno gli obesi metabolicamente obesi, quelli che hanno il colesterolo alto, i trigliceridi alti, le glicemie alte, un po' di ipertensione e così via. Però possiamo avere anche dei magri che sono, dal punto di vista metabolico, identici agli obesi, perché il disturbo, diciamo, questo disturbo metabolico, che poi nasce tutto dall'insulino resistenza, che è il fenomeno base, è legato all'accumulo di un po' più di grasso a livello addominale, grasso centrale, che possono avere anche i magri. Quindi evitiamo di discriminare a tutti i costi gli obesi, perché noi potremmo avere anche dei magri che hanno le stesse alterazioni di un obeso pur essendo magri. Quindi magri secondo il body mass index, ma non secondo la composizione corporea, che è un'altra cosa. Allora, 800 24 00 24, stanno arrivando molti messaggi e anche telefonate. E subito le ascoltatrici particolarmente si sono lanciate nella descrizione della loro taglia. Andiamo a leggerne qualcuna? Certamente. Allora, Silvia da Pisa ci scrive: ero una M fino a 35 anni, ora che di anni ne ho 47 sono una LXL, presi 12 kg in 12 anni. Chiede se per tornare ad essere una M le serviranno 12 anni. Io credo che ci vorrebbe, con una buona dieta e un... Se ho imparato qualcosa da Cuore Denari, Nicoletta, magari in un anno, anche forse in un po' meno, si fa e si possono anche mantenere stabili questi risultati. Sono una 50 ma vorrei essere una 42, anche perché sono bassina, ci dice Claudia, ma non so rinunciare a qualche bicchiere di vino a pasto. Chiara da Trento, completamente al contrario, ho la small e vorrei tanto avere una M, io sono il problema al contrario, e per me lo è anche da un punto di vista estetico. Allora, facciamo un commento rapido dei nostri esperti. Il dottor Aquila, insomma, sembra che il peso, non, nessuno sia contento del proprio peso. Anche il peso del vicino è sempre migliore. Bravo, vede? Più verde. Lei che taglia si dà, dottor Aquila? Io sono una L e sono abbastanza tranquillo di esserla. E quello che si poteva dire ai nostri ascoltatori è che servirebbe di unire i due aspetti, il peso a due componenti, una fisica, come ci spiegava l'altro ospite, ed una psicologica. Quella psicologica è significativa perché qualsiasi sia il tipo di sovrappeso o di sottopeso, c'è un comportamento da modificare, e quando le persone non riescono a modificare il proprio comportamento è perché magari hanno bisogno dell'aiuto di un esperto che conosca gli passaggi comportamentali. Certo. Ecco perché inviterei gli ascoltatori a non avvilirsi, a sapere che esistono delle modalità tecniche semplici per aiutare le persone proprio a fare quello che non riescono a fare. Non è una questione di volontà, è una questione di abilità tecniche dal punto di vista psicologico e comportamentale. Ci vuole fare un esempio, ad esempio, dottor Aquilar? Siamo nel caso di una persona che vede che anno dopo anno il suo peso aumenta, ma riesce solamente a, così, a misurarsi, ma non riesce a far scattare dentro di sé quel click che le permette di prendere un po' in mano la situazione. E perché probabilmente, in assenza di disturbi metabolici che ovviamente vanno indagati prima di cominciare un percorso psicoterapeutico, non ha soltanto preso un chilo all'anno in questi 12 anni, ma ha anche perso un dodicesimo di felicità ogni anno che andava avanti. E a questo punto noi dobbiamo aiutarlo, e possiamo aiutarlo, a ricostruire degli obiettivi di vita che rendono a questo punto possibile il piccolo sacrificio alimentare, perché in cambio diamo delle emozioni positive ed una progettualità più efficace, con una ristrutturazione dei modelli di vita e anche di eventuali idee disfunzionali che affossano la persona e lo spingono a stare più depresso o depressa. 800 24 00 24, il dottor Aquilar ci ha lanciato degli spunti molto interessanti su cui riflettere. Io passerei, intanto che voi ci pensate, contattate il nostro numero verde per farci sentire un po' la vostra voce, per provare a leggere il vostro peso dal punto di vista dei due approcci, due variabili differenti che sono la salute fisica e quella psicologica. Chiederei al professor Fatati di commentare, no? una situazione che è un po' sotto gli occhi di tutti. Ci sono persone che sono tendenzialmente portate ad accumulare peso, a cui basta nulla per guadagnare qualche chilo, ma ci sono delle persone che ingrassano proprio perché stanno troppo a dieta, diete ripetute, dieta dopo dieta. Ne ha parlato anche recentemente Deborah in una trasmissione. L'ago della bilancia, invece che non dico di stare ferme, aumenta. Questo è l'effetto paradosso. Come evitarlo? Io prima vorrei fare un commento su quello che ha detto l'altro ospite, no? Che mi trovo perfettamente d'accordo. Io penso però che dobbiamo anche fare una piccola sottolineatura. Spesso le nostre insoddisfazioni le poi scarichiamo sul nostro peso. Che ci sia un aumento di peso nel corso degli anni, soprattutto in certe epoche della vita, modificazioni comportamentali, è fisiologico. Io quando giocavo a pallone, un 80, 57 kg, tutti mi dicevano, gli allenatori, che ero troppo magro. Diciamo, prima c'avevo questo problema, adesso forse che tende ad aumentare di peso, però è cambiata la vita, è normale che il peso cambi e con l'età si cambi un pochettino. Non possiamo sempre dare al peso il peso, scusate, il bisticcio di parole delle nostre insoddisfazioni. Io non penso, se avete fatto caso alle risposte, non penso che sia normale che il sottopeso sta preoccupato per il peso. Quello che ha un peso normale sta preoccupato, quello che ce n'ha troppo magari non se ne preoccupa proprio. Perché questo è quello che vediamo un po' da voi nei vostri ambulatori e nei questionari. Dai nostri questionari, ne abbiamo fatti tanti con vari osservatori. Poi chi si preoccupa più del peso sono le persone con una taglia, diciamo, con una M. La taglia di mezzo. Che non è normalissimo, Dicevo, e da qui nasce l'altro problema. Cominciamo a fare delle diete, spesso delle diete anche troppo restrittive, per cui il nostro organismo si adatta a mangiare poco. Noi abbiamo dei meccanismi adattativi che ci hanno consentito di sopravvivere anche nei periodi di carestia, e ci consentono di sopravvivere, certo. Ma che una volta che entrano in gioco poi è difficile sbloccare, per cui noi ci adattiamo alla dieta sempre più con un metabolismo in basso, spendiamo sempre meno di vivere, vogliamo faticare poco, quindi la nostra vita è sempre meno attiva, per cui anche la massa muscolare, che è quella che brucia, tende a ridursi. E quando facciamo le diete adattiamo in basso, poi come smettiamo di fare la dieta e mangiamo magari normale, prendiamo molto più peso di quello che abbiamo perduto, e questo proprio perché siamo diventati una macchina che spende di meno per vivere. Quindi, certo, perché il corpo non dimentica. Io non devo dimenticarmi però che ci sono tra poco i mercati, però abbiamo in linea con noi tanti ascoltatori, sì. E volevo anche poi stimolare il dottor Fattati di sottoporci alcune domande tra quelle che hanno scritto nel questionario che è disponibile sul sito dell'Obesity Day, che ha proprio l'obiettivo un po' di testare il polso della situazione, delle nostre conoscenze, del nostro stile di vita. Dove andiamo? A Francesco? Andiamo a Francesco. Ok. Francesco da Roma, buongiorno. Rapido, perché buongiorno. Poi le raccontiamo anche i mercati. Anzi, se vuole lanciarli lei. Mi lancio io i mercati? Dai. Vi lancio io. Voi ditemi quando devo. Intanto ci dica la domanda e dopo le facciamo lanciare la borsa. Allora, intanto ovviamente complimenti per la trasmissione, perché effettivamente ha centrato, diciamo, esattamente quello che vivo io, nel senso che con i ritmi che comunque i casi una, diciamo, o praticamente non è facile, sicuramente subisco sostanzialmente il mio peso sostanzialmente è funzionale ai ritmi di tempo che ho, nel senso che mi accorgo che non avendo pasti regolari e di conseguenza avendo una vita un po' stressatella, come si dice, non si riesce praticamente appunto a magari a mangiare come Dio comanda, e di conseguenza anche questo poi influisce sull'umore. E quindi allora stress e dieta, quanto lo stress influisce sul nostro peso? Ne parliamo dopo, se Francesco però ci lancia i mercati. Cuore e denari. Io ringrazio tutti coloro che stanno spalando fango, poi c'è anche bisogno che le istituzioni diano anche altre risposte che solo le istituzioni possono dare. Allora noi rispondiamo in questo modo: immediatamente sospendiamo per tutti coloro che sono stati danneggiati dall'evento alluvionale, sospendiamo il pagamento di Tari, IMU e Tasi, quindi tutti coloro che sono stati danneggiati. La Tari non verrà applicata ovviamente a un'azienda finché questa azienda non sarà in grado di partire, quindi sospensione della Tari, IMU e Tasi 2014 a tutti coloro che sono stati danneggiati dall'evento. Oggi naturalmente a Cuore Denari anche noi vogliamo rivolgere un pensiero alla città di Genova, a tutte le zone duramente colpite dal maltempo in questi giorni, a tutti i cittadini che hanno avuto danni alle proprie abitazioni, alle proprie aziende, negozi e che adesso si stanno rimboccando le maniche. Quella che avete sentito era la voce del sindaco di Genova, Marco Doria, tanto contestato, quando ha comunicato nei giorni scorsi ufficialmente la decisione da parte del comune di sollevare tutte le vittime dell'alluvione dal pagamento delle tasse sugli immobili. Disastri come questi andrebbero prevenuti, se ne sta parlando tanto in questi giorni, e probabilmente questa per i genovesi sarà solo un'amara consolazione. Se non altro si tratta però di un piccolo alleggerimento. Noi proprio di tasse sugli immobili e sui servizi dei comuni parleremo tra poco. L'acconto per la Tasi va versato entro dopodomani, è dovuto sia dai proprietari che dagli inquilini. Voi continuate a prenotare tutte le vostre domande e dubbi all'800 24 00 24. La verità è che Paolone è solo goloso e disubbidiente. È la prima volta che ci separiamo da lui e siamo tanto addolorati. Sia severo, dottore, severo. Ma io come faccio a dimagrire quando questo qui ha dir poco il doppio di me? Guardate che pappagorgia! Eccola qui, 7 kg in 7 giorni, pellicola dell'86, ma ancora attuale almeno per quanto riguarda il problema della dieta. Ci sono degli spunti interessanti che abbiamo sicuramente colto. Il primo riguarda la convinzione che i chili in più siano sempre espressione di una dieta sregolata ed eccessiva, di una mancanza di controllo da parte del soggetto che è sovrappeso. In parte è così, ma non è la regola, l'ha spiegato il professor Fatati. La seconda riguarda l'età del piccolo paziente. Anche qui, nonostante siano passati circa 30 anni, il problema persiste, anzi aumenta e si fa più grave. L'Italia ha uno dei tassi più alti di bambini obesi e sovrappeso e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è un problema molto forte, perché nuoce l'obesità nuoce quasi quanto il fumo. Pensate che 15 kg di troppo corrispondono a circa 8-10 anni di vita in meno e un rischio di morte prematura aumentato di un terzo. C'è poi un terzo aspetto che ci riporta alla polemica proprio di questi giorni. Sì. È attendibile un medico, il caso è partito per il ministro della Sanità belga, che ti invita a seguire uno stile di vita regolare, attento, quando è in questo caso sovrappeso. Anche il bambino dice: ma come posso fidarmi di questo che mi racconta e mi dice di mettermi a dieta quando è il primo a lui a non farla? Vorremmo anche stuzzicarvi su questo aspetto. 800 24 00 24. È poco attendibile un medico, se è sovrappeso, che ci invita a tenere un po' a bada il nostro stile alimentare e correre? È un po' come se il nostro dottor Fumo, il dottor Boffi dell'Istituto dei Tumori, ci invitasse a smettere di fumare fumando. Ma questo ve lo lasciamo. Io voglio solamente sottolineare che essere obesi non è una colpa, è un problema di salute per la persona, e in tempi di crisi diventa anche un problema di salute. La donna di Denari lo conferma per i servizi sanitari. Chiudo e andiamo a rispondere, intanto che voi ci chiamate, andiamo a rispondere al nostro amico Francesco, che ci chiedeva se lo stress può incidere, può essere una delle cause dell'aumento di peso. Naturalmente interpelliamo i nostri due esperti perché vogliamo leggere il tema, che è il problema, ma da due punti di vista: dal punto di vista clinico con il professor Fatati e dal punto di vista della mente psicologico con il dottor Aquilar. Dottor Aquilar. È certamente che lo stress può incidere, e il nostro simpatico ascoltatore Francesco se la prendeva con la difficoltà di avere passi regolari. In realtà la cosa è un pochino più complessa, perché naturalmente nella nostra società particolarmente competitiva e per di più in crisi economica, lo stress derivante dalle pressioni sociali è diventato più forte. Ma l'implicazione è quella di provare a suggerire alle persone di prendersi cura di sé, di autorizzarsi, di ritagliarsi il tempo, di sentirsi in qualche modo invitati gentilmente a prendersi cura di sé. Se anche il nostro modo di alimentarci e le emozioni che sono ad esso connesse possono essere prese come un esempio di prendersi cura di sé, a questo punto anche il sacrificio alimentare per mantenere un peso adeguato non sarà più così pesante. Sarà un altro dei modi in cui ci prendiamo cura di noi stessi, ma al primo posto dobbiamo prendere la persona nella sua integrità come essere umano sottoposto a pressioni notevoli. Professor Fattati? Sicuramente sì, lo stress crea una serie di problemi. Il primo è l'aggressività oroalimentare. Noi per poter avere un senso di sazietà buono dobbiamo riuscire a percepire il gusto. E noi diciamo sempre che va spostata l'attenzione dalla quantità alla qualità dell'alimento se vogliamo riuscire a seguire un'alimentazione equilibrata. Questo quando siamo sotto stress non è possibile perché l'aggressività oroalimentare scatenata ci porta a mangiare molto in fretta, a ingoiare e quindi i recettori non vengono stimolati. C'è anche una fisiologia del rapporto fra i recettori del gusto che stanno nel cavo orale e il senso di sazietà a livello cerebrale. Ma al di là, oltre a questo, lo stress economico e della perdita del posto di lavoro, lo stress legato al non sentirsi sicuri dal punto di vista economico ci porta ad acquistare laddove si spende di meno e guarda caso studi non solo nostri ma internazionali ci dicono che meno pesa dal punto di vista economico il carrello, più pesa la persona che lo guida, nel senso chi prova a spendere meno per mangiare in realtà ingrassa di più, quindi questo è una conseguenza dello stress economico del momento. Ancora vedi un tema proprio alla cuore denari. Assolutamente. Andiamo alle nostre... Io sono troppo curiosa di sentire la testimonianza di Emanuela da Padova, perché prima tu citavi l'esempio della persona che magari ha problemi appunto di sovrappeso, che va da un medico che a sua volta magari un po' rotondino e dice ma quale esempio no, posso certo. trarre da questa situazione. Emanuela ha un altro problema, un'altra come dire faccia di una medaglia che ne ha tante di facce. Emanuela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua, 1,62 m per 57 kg e una taglia 42, chef di professione. Wow! Quindi spesso mi è capitato di leggere la sorpresa negli occhi diciamo di chi mi vedeva in cucina e magari soprattutto quando magari esco a sentire i clienti, a vedere sì. come va eccetera, e rimangono abbastanza così sorpresi della mia taglia, no? Nel senso che sono abbastanza minuta e quindi insomma fa un certo effetto. Addirittura io ho anche un figlio grande che fa lo chef, molto spesso mi dice, mi prende in giro e mi dice sei poco attendibile, dovresti essere un po' più rotonda però, diciamo, essere credibile. Emanuela, però ecco. Tutti i giovani chef mi sembra che siano, penso, non so, Oldani, Stefano Polato, certo, sono ormai gli chef proprio veri, sono Smilzi, Barbieri, Cracco, insomma, Cracco sono un po' più tondino, se lo nasconde, attenzione. Dici che c'è un po' di pancetta. Ha una bella ciambellina attorno. Emanuela, senti, io... È vero. È verissima questa cosa, però questa è l'immagine televisiva, no? Molto spesso, io ho 55 anni, per cui mi sono spesso confrontata con colleghi negli anni indietro che effettivamente erano... corpulenti, erano naturalmente... Un po' l'abito fa il monaco, no? Il della situazione, insomma, ecco. Senti Emanuela, posso chiederle una cosa? Una mi allargo. Ci regala una ricetta a cuore denari che noi la postiamo sulla nostra pagina così ci ricordiamo un po' esatto. di questa puntata? Devo darle il budget certo. magari? Ecco, Deborah dal budget. Io mi lanciavo con il cuore una ricetta per ricordarci. Vabbè, le do 30 euro, è un buon budget Emanuela. Sei ricca. Sì dai, oggi sono generosa. Ma Emanuela, riusciamo a fare anche meno, no? Di 30 euro? Io di sì, non c'è problema. Cioè, posso sicuramente meno. E io penso, per esempio, non so, ai tagliolini al limone, se sono un primo splendido, molto anche appetitoso e che piace, io vedo che riscontra per esempio molto, molto successo, fatto, io lo faccio in modo un po' particolare con le mandorle per esempio. Allora, quindi, fantastica, Emanuela, che ore sono? 11.44, va bene, ce lo manda? Ce lo posta? Grazie Emanuela, un abbraccio e resti così. Esatto. E grazie, ci saluti grazie suo figlio. A voi e complimenti per la trasmissione, veramente vi seguo con molto entusiasmo. Dalle cucine, e questo ci piace. Grazie Emanuela. Sì, sicuramente. Buon lavoro Emanuela, andiamo a Giorgia, ce la facciamo in 30 secondi prima di salutare i nostri esperti Giorgia, e passare al prossimo rapida, tema. Sì. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno Giorgia. Allora, io sono una donna di 47 anni che anche quando ne aveva 22 era costantemente in sovrappeso. Nel senso che io non mi sento in sovrappeso, ma per lo stile di bellezza, di immagine che ci si propone oggi come donne, io ero sempre grossa. Poi chiaramente le gravidanze, la vita, la famiglia e il lavoro hanno contribuito a che il seno prosperasse, i fianchi diventassero davvero più rotondi e io mi sono ritrovata a fare tutta una serie di diete che hanno funzionato fino ad un certo punto. La domanda è questa, la faccio ai dottori: perché quando noi donne, che abbiamo tutte le problematiche ormonali che ci accompagnano dall'adolescenza alla menopausa, andiamo da un dietologo, un nutrizionista, non abbiamo ben chiara la differenza tra le fasce di età, la differenza tra massa magra, massa muscolare, quel grasso che ci deve essere, quello che invece è pericoloso, e quindi io ho dovuto nel corso della mia esistenza farmi un'autoformazione e decidermi che sono bella così come sono. Brava. Con la mia taglia LXL. Brava Giorgia, io credo che il dottor Aquila, il dottor il professor Fatatti, anzi prof e prof, possano fare un commento rapidissimo al caso di Giorgia. Professor Fatatti. Sì, è quello che dicevo prima, c'è superficialità, c'è stata per molto tempo una grande superficialità nel considerare le persone e soprattutto bisogna stare molto attenti quando si entra nel mercato delle diete e nel consumismo della dieta, che spesso e volentieri non rispetta il soggetto. Da questo punto di vista sono perfettamente in linea con l'ascoltatrice. E sicuramente in linea anche il professor Aquilar. Professore. Certamente con tre piccolissime istruzioni: monitorare, capire con qualcuno e modificare. Se noi non capiamo insieme a qualcuno e se non abbiamo il monitoraggio della nostra situazione, perché alcune persone non ci vogliono proprio pensare, non possiamo modificarlo. Quindi monitorare, capire con qualcuno e poi modificare. Qua ci vuole un post da mettere sul nostro Daily Lab, insieme alla ricetta che ci manda la nostra amica chef. Professor Aquilar, grazie. Certo, grazie. Adesso noi andiamo ce l'abbiamo. Ma leggo questo messaggio di Luca da Roma, 42 anni, altezza 1,70 m, che dice: 15 anni fa pesavo 70 kg, a distanza di 15 anni di matrimonio, precisa, ho preso 15 kg. La sola parola dieta mi mette un enorme stress. Tu pensa quanto stress si sono caricati addosso in questi ultimi mesi gli italiani davanti alla parola TASI. E noi ne parliamo tra poco. Ne avranno pure togliere... messo su qualche chilo a causa della tassa sui servizi lo stress indivisibili. Può far aumentare i chili, ma li può fare anche perdere. Vediamo. Lo chiederemo al nostro esperto. A tra poco. Cuore e denari. È aumentata la TASI, TAIRI, tutto, IOC, come si chiama, IUC. Non è vero che abbiamo tassato la casa, abbiamo... Cioè, come la TASI, no? Come no, la TASI? Com'è? L'innalzamento della TASI? La, la tassa sui rifiuti, la TARI, mi pare si chiama, l'ultimo nome, se no... In Veneto TASI vuol dire TACI. TASI, si finisce RS, ora poi si fa TATI, TAVI, TAZI, TAFAZI, Gli italiani pagheranno meno tasse anche sulla casa, e laddove ne pagano un po' di più dovranno parlarne col loro comune, perché la TASI è una tassa comunale. Che stress, qua ho messo su mezzo chilo solo a sentire tutto questo ragionamento. Nicoletta, non l'abbiamo neanche pagata, che già il governo pensa di modificarla di nuovo. Pensa quante signora. Puntate di Cuore e Denari. Meno male. E insomma, come dire, Renzi ha questa idea di fondere la TASI con l'IMU in una nuova tassa unica. Per ora dedichiamoci ai fatti e non alle ipotesi. Il 16 ottobre alle porte, entro giovedì più o meno tutti dovremo metterci in regola con il nostro incubo di quest'anno, che è stata la Tasi. Sono quasi 18 milioni i proprietari di abitazioni principali chiamati alla cassa, ma la situazione è piuttosto complicata, decisamente eterogenea, perché, come ricorderete, ogni comune ha avuto la facoltà di fissare le aliquote, peraltro tutti l'hanno fatto proprio nelle ultime settimane, situazione che naturalmente ha complicato la faccenda per molti contribuenti. Addirittura qualcuno neanche sapeva, neanche sa fino ad oggi quanto deve pagare. Per fortuna che con noi oggi c'è Mirko Mion, presidente. Che ce le paga tutte lui. Davvero? Te l'ha detto e non me ne sono accorta? Presidente di AGEFIS, Associazione Geometri Fiscalisti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Venuto di... Allora, il microfono funziona o no? Possiamo sentirlo? Sì. Eccolo qua. Ecco qui, buongiorno a tutti. In una giornata in cui parlate di cibo, sicuramente una materia indigesta, la Tasi. Lui digerisce benissimo perché è uno dei nostri ospiti più in forma. È vero. Questo possiamo riconoscerlo. Allora, la domanda ai nostri ascoltatori, Nicoletta. Allora, 800 24 00 24. Sì. Questo è il primo passo, chiamateci. Oh, sì. Poi, per dirci, se avete già pagato l'acconto della Tasi, non dimentichiamo che tocca a proprietari e inquilini, sì, in misure differenti, quindi chiamateci se anche siete inquilini. Se non ci avete pensato e non sapete né come si calcola né come si paga, difficile però, perché abbiamo fatto tante puntate, ci sono state gli inserti del Sole, ma magari uno è arrivato. Anche magari volete sottoporci i vostri casi irrisolti, noi siamo qua perché sappiamo che si possono creare molte situazioni limite che ci lasciano un po' perplessi, e quindi Cuore Denari vi dà una mano. Sono già pronti peraltro all'800 24 0024 Amedeo da Udine, Fabio da Roma, li sentiremo tra un attimo. Negli ultimi giorni il Sole 24 Ore ha affrontato, rispondendo ai lettori, alcuni casi specifici, come per esempio come funzionano le cose per le case in eredità, in usufrutto, in comodato. Molte informazioni le potete trovare proprio sul sito del Sole, dove c'è questo filo diretto che si chiama SOS Tasi. Mion, secondo lei saranno molti i contribuenti che arriveranno proprio, come dire, in corner all'ultimo minuto, oppure in questi giorni ci si è già mossi? Insomma, qual è la sensazione che ha? Beh, sicuramente si sono già mossi, perché nella realtà ci troviamo poi di fatto alla seconda tornata. La prima tornata aveva portato alla cassa il 16 di giugno tutti i contribuenti per pagare la Tasi per quei comuni, diciamo un primo gruppo, circa 2200 comuni, che vanno appunto deliberato entro il 23 di maggio. Qui siamo, come dire, in una situazione un po' più corposa, siamo a circa 5200 comuni che hanno deliberato il proprio regolamento, le proprie aliquote, eventualmente le detrazioni entro il 10 di settembre, e quindi questi saranno chiamati per il 16 di ottobre ad andare a pagare il primo acconto. Mm-hmm. Quindi le persone, insomma, in qualche modo si sono avvicinate strada facendo a questa nuova tassa, questo nuovo tributo che di fatto poi sostanzialmente sostituisce la vecchia IMU sull'abitazione principale, mm-hmm, e ci hanno fatto un pochino già di esperienza, devo dire, anche grazie alla vostra trasmissione, che bravo, è sempre molto... Invitiamolo sempre. Sì, molto volentieri. Mi piace quando ci fanno i complimenti. In tutto questo, così avevo immaginato di dirlo più avanti nella scaletta, ma vale la pena forse già ricordarlo, che ci sono 650 comuni in Italia che invece non hanno fatto alcunché e che obbligheranno i contribuenti a pagare, certo, tutto in un'unica soluzione a dicembre. Infatti, questi sono esattamente 659 comuni, pari a circa l'8% del totale dei comuni. Questi, non avendo deliberato, di fatto porteranno alla cassa i propri cittadini tutti al 16 dicembre con l'aliquota base dell'1 per 1000 senza alcun tipo di detrazione. Mm-hmm. Quindi direi francamente che tutto sommato potrebbe essere la soluzione più indolore, no? Ecco. È molto semplice da applicare. Chi non ha ci deliberato sono... è perché ha caricato un po', qualche comune che ha chiamato alla cassa perché serviva. Certamente, certamente. Come categoria professionale geometri fiscalisti, Mion, quali sono i casi più complessi a cui vi è capitato nelle ultime settimane di prestare la vostra consulenza, le situazioni particolarmente complicate? Sono stati i comuni che hanno deliberato all'ultimo, che hanno gettato un po' nello sconforto i contribuenti, o c'è dell'altro? Beh, allora, sicuramente il tema che rimane vivo, come era vivo per l'IMU, è il concetto di inquadramento della cosiddetta abitazione principale. Ricordiamo, come dicevo poco fa, appunto, che la Tasi va a colpire proprio le abitazioni cosiddette principali. Sicuramente poi in questa applicazione a geometria variabile dei comuni, di quella che è una normativa nazionale che sostanzialmente potrebbe essere facilmente applicabile, la confusione e i casi particolari nascono proprio attraverso la lettura delle varie delibere, perché troviamo comuni che hanno inserito inserito aliquote maggiori, oppure comuni che hanno inserito o non inserito delle detrazioni a seconda delle rendite catastali delle unità immobiliari, alcune inserito detrazioni sui figli, e quindi è strettamente necessario ogni volta, qui esatto. La difficoltà, in realtà è una difficoltà globale, quella di andare ad affrontare caso per caso. Esattamente, allora è il caso complicato, è anche una quello che riguarda misura, insomma, come l'abito, esatto. Mi piace, come la sulla propria taglia. Cuore e denari. Io non pago le tasse perché non ho più soldi dentro le tasche. Quando son su pago la tarsù, quando sono in allegria paghi la tia. Arrivo a fine mese. Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Faccio arrestare solo. Che cosa è la trisse? È vero che se non curata può degenerare in tasi? Insomma, con il solito Maurizio Crozza noi proviamo a sdrammatizzare un po'. Ben ritrovati a Cuore Denari, oggi di nuovo alle prese con la TASI. Ricordate che l'acconto va versato entro giovedì prossimo 16 ottobre. Continuate allora a prendervi tutto lo spazio necessario a Cuore Denari con il numero verde 800 24 0024. Diteci se l'avete pagata, se la state ancora calcolando, perché vi siete ridotti all'ultimo, proprio perché magari abitate in un comune che ha deciso l'altro ieri. Mirko Mion di Agefis è ancora con noi, l'associazione dei geometri fiscalisti. Prima di essere interrotta brutalmente dal nostro timer, correttamente, stavo dicendo che tra le domande più gettonate da parte dei nostri ascoltatori ci sono quelle relative al rapporto fra proprietario ed inquilino. Il proprietario in questo caso deve pagare, Mione, chiariamolo subito questo aspetto, la sua quota, l'inquilino la sua, e se la deve calcolare, non deve aspettare che sia il proprietario che vada in casa con un documento. Certamente. Sarebbe gentile da parte del proprietario, ma però non gli è dovuto. La legge non lo obbliga. Beh, iniziamo intanto col dire che per la prima volta questo tipo di tributo locale porta alla cassa anche i detentori degli immobili. Abbiamo sempre parlato di possessori, la TASI la devono pagare sia i possessori, quindi i proprietari, che i detentori dell'immobile. Proprio per detentore dell'immobile è colui che lo conduce, quindi di fatto l'inquilino. È l'inquilino. La normativa nazionale prevede che a carico dell'inquilino debba essere scritta una quota tra il 10 e il 30%, anche qui sarà necessario andarlo a verificare all'interno della delibera comunale. E come è stato appunto detto, si tratterà di un'obbligazione personale. Quindi il proprietario non si può sostituire in base alla normativa all'inquilino, ma potrebbe eventualmente farlo laddove abbia timore che poi in un secondo tempo, anche se la normativa qui è abbastanza chiara dal punto di vista tributario, non c'è la possibilità della rivalsa, potrebbe inviare una comunicazione al comune e sostituirsi al pagamento al posto dell'inquilino. Allora, Amedeo da Udine, abbiamo detto tutto con chiarezza? Grazie, buongiorno, auguri per la trasmissione. Grazie. Finalmente vi sostituite allo Stato, perché naturalmente queste cose dovrebbero essere fatte dallo Stato, dalle regioni e dai comuni, invece non si è nel caos più completo. Comunque, io ho due problemi da risolvere. Io ho ereditato a maggio un terzo di un appartamento in Puglia, io abito a Udine, e mi hanno fatto pagare subito l'IMU. Certo, dopo 15 giorni. Appena l'hanno saputo, subito l'hanno appena trovata, Amedeo. Sì, ero giù, per cui l'ho pagata subito, perché quando si tratta di pagare, dobbiamo pagare subito, quando si tratta di ricevere, essere, aspettiamo di ricevere, anni, certo. Aspettiamo anni, come al solito, vabbè, questa è la prassi in Italia, va bene. Allora, cosa devo fare io? Cosa devo pagare? Amedeo, allora deve pagare il terzo di sua competenza. Certamente, essendo poi lui residente, il signor Amedeo ad Udine, si tratta di un'abitazione secondaria e quindi di fatto dovrà andare a pagare l'IMU ed eventualmente la TASI, laddove la somma delle due comunque non debba andare ad essere superiore al massimo dell'IMU applicabile, quindi in, diciamo così, al 10,6%, laddove però, anche qui è un'altra un'altra novità contingentata soltanto per quest'anno, il Comune avesse voluto introdurre delle detrazioni ai propri cittadini e allora a quel punto avrebbe dovuto aumentare l'aliquota dello 0,8 e qui si troverà quindi come tetto massimo l'11,4%. Però, allora, tra l'altro Amedeo diceva io ho ereditato per un terzo questa casa, lui chiaramente queste tasse deve pagarle esclusivamente per la quota di sua competenza, diciamo non è responsabile qualora adesso magari saranno cugini, fratelli, sì, non magari sappiamo. Loro non la pagano gli altri. Ecco, però lui diciamo che lui non dovrà alcuna. Correttamente effettuare un calcolo che tenga conto poi della divisione di un terzo sulla globalità dell'imposta. C'era qualche domanda che sì, ti volevo chiedere al nostro esperto un messaggio da parte di Antonio che ci chiede: pagano anche i conduttori di locali, cioè gli inquilini dei negozi? Beh, gli inquilini dei negozi in questo caso saranno in qualche modo chiamati alla cassa attraverso di nuovo la lettura del regolamento comunale. Anche qui sarà necessario andare a verificare puntualmente quello che ha deliberato il comune. 800240024, adesso sentiremo un altro ascoltatore che è Fabio da Roma, ancora una volta per quello che riguarda il rapporto proprietario ed inquilini, ma qua bisogna rifare di nuovo il riepilogo tradizionale su questo argomento, Mion, perché a qualche ascoltatore proprio non va giù di dover pagare per l'illuminazione, in sostanza perché dobbiamo pagare questa tassa sui servizi indivisibili e quali sono? Allora, la tassa appunto chiamata TASI è il pagamento e la contribuzione di ogni cittadino al correre alla spesa dei cosiddetti servizi indivisibili. Questo è il motivo per cui pagano anche gli inquilini di un appartamento. Ecco, esattamente. E sono tutte quelle spese che concorrono appunto ad esempio all'abbellimento del verde pubblico oppure all'utilizzo di alcuni servizi come la biblioteca oppure la pulizia delle strade. Ecco perché sono chiamati anche gli inquilini, perché nella realtà sono coloro i quali ne usufruiscono. E si paga anche se non si è soddisfatti. Esatto, di questi servizi, anche se c'è una sorta di clausola, come dire, di possibilità di andare a verificare quanto non si è soddisfatti, perché il comune, sempre all'interno della propria delibera, andrà a definire oltre a quali sono i servizi indivisibili che vengono finanziati attraverso questa tassa, quindi la TASI, anche i capitoli di spesa per ogni tipologia di servizio. Quindi il cittadino in qualche modo potrà verificare all'interno del regolamento del proprio comune se per la biblioteca sono stati stanziati 1.000 piuttosto che 10.000 euro e verificare se i soldi che lui ha versato sono stati spesi, come dire, in qualche modo, in modo coerente. Lei diceva anche per l'abbellimento delle aiuole, degli spazi pubblici, diciamo che oggi prevalentemente i comuni utilizzano queste risorse al posto di tutti quei trasferimenti statali che non ci sono più, quindi diciamo proprio per la ordinaria amministrazione, direi, della cosa pubblica locale. I comuni hanno dei bilanci assolutamente deficitari, teniamo anche conto che questo è l'ultimo anno in cui c'è un trasferimento da parte dello Stato di 650 milioni, tant'è che stiamo assistendo e abbiamo fatto proprio come Agefis una simulazione, c'è una forte percentuale di comuni che hanno addirittura abbassato il versamento minimo, che come ricordiamo da un punto di vista della normativa nazionale è previsto a 12 euro, ma molti l'hanno portato addirittura a 2 euro. Questo significa che anche pochi, ma pochi maledetti subito. Subito. Ecco, quello che non strozza è ingrassa. Ecco, sempre per tenere l'argomento anche sulla prima parte. Andiamo da Fabio. Bravissima, andiamo. Buongiorno Fabio, benvenuto. Buongiorno, io volevo fare una domanda. Siccome purtroppo, cioè, per fortuna lavoro e quindi devo prendere un giorno di ferie per andare dal commercialista a farmi fare il calcolo, tutto quanto. Mamma mia, Fabio, ma con una mail non ce la fa? Addirittura deve perdersi un giorno di lavoro? Eh sì, perché devo andare a fare la fila dal commercialista, perché come faccio? Non è che ho un commercialista privato, io non ho un dipendente. No, mi scusi, certo, ha ragione. Quindi andrà ad un centro di assistenza fiscale, magari come per altri. La fila. E quindi poi per pagare penso 3-4 euro, perché c'è un monolocale piccolissimo. Fabio, però se lei non vuole fare tutto questo giro, noi le segnaliamo tanti come si chiamano, adesso non mi viene il termine, calcolatori telematici, c'è per esempio anche quello del Sole 24 Ore che noi abbiamo condiviso anche sui nostri social, e se ci manda la sua mail magari glielo passiamo anche. Anutel mi sembra che si chiami, il comune di Milano lo ha fatto, ma noi per esempio ieri con Marco Lombardo, andandolo a visionare, abbiamo scoperto che in realtà un po' la piattaforma è simile a quella di molti altri comuni, per cui magari Roma, se si fosse impegnato un po' il sindaco Marino, forse potrebbe anche aver messo a disposizione di tutti i cittadini questo simulatore. Però adesso sentiamo se Fabio aveva completato intanto la domanda. Fabio? I dati del mio monolocale, perché il proprietario non mi ha dato nulla. io voglio solo sapere, se non pago ci saranno delle grosse sanzioni, perché appunto probabilmente mi non pagare e aspettare che mi arriva allora, la multa. Certo, Fabio, no, adesso ci mancherebbe altro. Non credo che le sanzioni per un monolocale siano salatissime. Tra l'altro l'inquilino che sta in affitto paga una quota della TASI compresa fra il 10 e il 30% dell'imposta complessiva. Certo, bisogna iniziare a vedere se effettivamente deve pagare, perché qui è sempre il concetto dell'inquadramento che dovrà fare l'ascoltatore, il cittadino. I dati li può reperire laddove sia affittuario all'interno del contratto d'affitto, e quindi insomma questo dal 2010 in poi è obbligatorio in tutti i contratti d'affitto, quindi la può reperire la rendita, o eventualmente chiedere al proprietario una visura catastale e fare questa verifica. Dovrà altresì in questo modo poi potrà inserirsi all'interno di tanti calcolatori. Beh, quello del Sole 24 Ore effettivamente funziona molto bene, che tiene conto comunque anche di quelle che sono la maggior parte, la stragrande maggioranza delle delibere, e verificare se poi effettivamente deve andare a versare, oppure no. Stavo guardando quello di Milano, ha già l'aliquota indicata appunto nel simulatore, quindi basta mettere solamente l'indicazione se uno è titolare di un'abitazione principale e la rendita catastale delle aspetti Ho ben capito, l'ascoltatore Fabio è un affittuario, si può indicare lo stesso se si è in un rapporto appunto con la proprietà di questo tipo, e viene fuori la cifra da versare. Non è molto complicato, però magari per Fabio lo è evidentemente, quindi preferisce prendersi mezza giornata di ferie e andare ad un caffè. Vabbè, ognuno faccia quello che ritiene. Una scelta che ha fatto anche Gianmario. Esatto. Buongiorno da Milano, ci chiama Gianmario, 800240024. Ci racconti un po', Gianmario. Io ve lo sconto volentieri, com'è la storia. Allora, la TASI io l'ho fatta calcolare a un CAF, quello che fa il 730, eccetera. Centro assistenza fiscale, sì. Brava. Tra l'altro non è neanche per me, ma io lo faccio per due persone che, poveretti, sono invalidi e quindi non si riescono neanche a muovere, eccetera. Però sono amici di famiglia e io mi sono preso questo incarico. Sono andato a fargli la cosa lì, la TASI, il calcolo, eccetera, mi hanno fatto il calcolo, alla fine mi danno il foglio F24 da pagare entro dopodomani e mi dice c'è da pagare 30 euro. Io 30 euro gli ho detto, ma perché c'è da pagare 30 euro? Mia sorella l'ha fatto in un altro CAF e non ha pagato niente. Ma noi l'abbiamo calcolato, bisogna pagare 30 euro. Vabbè, io gli ho pagato sti 30 euro. Doveva andare al CAF di sua sorella, Gianmario, niente, là sono gratuiti. Doveva andare al CAF. Lei deve fare deve sempre seguire sua sorella, Gianmario. Dobbiamo proprio spiegarle l'ABC. No sto scherzando, perché ora voglio dire, dai, diciamo che 30 euro su 80 lei si indispettisce per quello che intanto tutto sproporzionato, vuoi che ti paghi? Me li tengo a carico io, perché non ho neanche il coraggio di chiedergli. Però il discorso è questo che io dico: sto sindaco di Milano che ci riempie la città di zingari non è capace di far calcolare i suoi operai, ai suoi impiegati. Sugli zingari io direi che seconda cosa il tema proprio non ha niente a che non fare. Fare, detto questo, se andava sul sito del comune di Milano, guardi, le assicuro che è banalissimo mettere due indicazioni sull'abitazione di proprietà e il calcolo veniva fatto in un nanosecondo. Mi rendo anche conto che non tutti abbiamo questa facilità di utilizzare internet e di andare a cercare tutte le informazioni, per cui si preferisce il rapporto fisico. Lì ci sono persone che lavorano e anche i CAF si fanno pagare. Io mi sento di lanciare una ciambella di salvataggio comunque ai comuni. Ci sono anche comuni estremamente virtuosi che si sono posti questo problema e hanno effettuato i calcoli ed inviato i bollettini, i calcoli a casa. Devo dire che in alcuni casi, anche va detto, i calcoli non sono correttissimi, però essendo stati inviati dal comune le prendiamo come un dato di certezza, e quindi insomma chiaramente è una situazione con chiariscuri, con luci ed ombre che getta, come dire, ancor di più su questo tributo locale un occhio particolarmente, come dire, aggressivo da parte del contribuente, proprio perché è indotto un pochino nella confusione. Posso dire che naturalmente 30 euro su un pagamento di 80 sono del tutto sbilanciati, però loro il lavoro l'hanno fatto, sia per una persona che dovesse pagare 500 euro che 80, per loro il lavoro è lo stesso, e quindi niente, evidentemente tre pratiche, forse 10 euro ciascuno, non so come abbiano calcolato, però insomma sono persone che lavorano. Chi sentiamo adesso? Andiamo a salutare Beniamino. Buongiorno. Che ci apre un'altra finestra su un altro tema importante: se uno è diventato proprietario qua di un'abitazione a metà anno, quanto paga, eccetera. Beniamino, buongiorno. Oppure buongiorno. Affittuario. Sì. Si tratta di un monolocale, sì. Come seconda casa, dato in affitto, sì. Una rendita catastale di 251. Sì. Dal 1 gennaio al 31 agosto c'è stata un'inquilina, poi è andata via e dal 1 settembre c'è un'altra inquilina. Mm. Quindi io volevo sapere se io come proprietario devo pagare e in che percentuale devo pagare, visto che Milano già raggiunge il, certo, 10,6%. Qua è una situazione bella complicata. Allora, intanto la prima inquilina, secondo lei bisogna ricercarla per farle pagare la sua quota? No, ormai è andata. Ricercarla no, però di fatto ha contratto la sua obbligazione. Sì, perché nella realtà il proprietario, signor Beniamino, dovrà pagare per la quota a suo carico, che starà tra il 70% e il 90%. Mentre l'affittuario che ha utilizzato, quindi ha condotto l'immobile per il periodo dal 1 gennaio al 31 agosto, se ho appuntato, sì, bene, sì, dovrà caricarsi una quota pari a 8 dodicesimi dell'imposta a suo carico, dal 10 al 30% la rimanente parte per il nuovo affittuario. Allora, così a spanne ho calcolato che 251 di rendita catastale. Adesso non so, magari credo che siamo però al di sotto dei 12 euro per diciamo, molto probabile, ecco, perché 251 possono svangarla. Sì, ecco, sì, io penso che comunque siano al di sotto del minimo da versare, quindi di fatto sono autoesentati. Non c'è bisogno che Beniamino povero si metta alla ricerca di queste persone. Insomma, tutte queste situazioni un po' al limite, no? Mion, chi è diventato proprietario quest'anno di un'abitazione principale? C'è addirittura sul Sole 24 Ore un caso di chi magari occupava una casa in affitto fino all'altro ieri, poi magari l'ha comprata e ne è diventato proprietario. Esatto, qua cosa bisogna fare appunto per andare a capire bene come comportarsi con questa scadenza? Sicuramente a seconda della tipologia di figura che ricopro durante un certo periodo andrò ad assumere il pagamento dell'imposta in funzione di questa posizione. Quindi se sono detentore se sono affittuario fino ad un certo periodo pagherò la TASI per quel periodo, quindi con un prorata, e poi cambio d'abito e divento proprietario. Divento proprietario, voilà. E quindi diventa... Vedi, che le taglie e gli abiti tornano anche nella seconda parte del programma. Avete tempo per scriverci oggi, domani e dopodomani, se volete proprio pagare all'ultimo giorno, per cui contattateci a cuoredenari@radio24.it. Tutto il team, lo staff di Mirko Mion è a nostra disposizione per rispondere ai vostri quesiti. L'ultima domanda di un ascoltatore, forse Fabrizio separato, un po' complessa, abbiamo preferito non prenderla. Ci scriva Fabrizio, le risponderemo in privato. Intanto ancora tante domande, perché più di 50 telefonate danno la testimonianza di come ancora si viaggi un po' nella nebbia da molti punti di vista in questi giorni su questo tema. Grazie Mirko Mion. Grazie a tutti voi, grazie. Torni presto a trovarci. Noi torniamo, grazie, domani, che, sì, dici? Noi domani saremo qua. Guarda, è apparso Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica improvvisamente. Carmelo ci ha voluto Carmelo mollare. Ci ha lasciato. Perché lui ha pagato, la TASI era tranquilla e non voleva più sentire nulla. A domani. Ascoltate, per il mese della digestione Uliveto a 39 centesimi, prezzo consigliato. Vi ha presentato Cuore e Denari.